Capitolo 18. Jip. È già l'ora, Feltri Checo, di parlare di avere un cane, disse Gilbert. Non avevano più avuto un cane a Ingleside da quando il vecchio Rex era stato avvelenato, ma i ragazzi desideravano averne uno. Il dottore decise di accontentarli, ma era così occupato durante quell'autunno che continuava a rimandare, finché infine un giorno di novembre Jem tornò a casa, dopo un pomeriggio trascorso con un amico di scuola, portandosi dietro un cane, un piccolo, pallido cane giallo con due orecchie nere, presuntuosamente dritte. Me l'ha dato Joe Rees, mamma. Il suo nome è Jip. Non ha una coda simpatica? Posso tenerlo, mamma? Posso? Che razza di cane è, tesoro? Chiese Anna dubbiosa. Io penso che sia un sacco di tipi, disse Jem. E questo lo rende più interessante, non ti pare, mamma? Più entusiasmante che se fosse stato solo un tipo. Per favore, mamma. Oh, e se tuo padre dice di sì. Gilbert disse sì e Jem entrò in possesso del suo patrimonio. Tutti a Ingleside accolsero Jip con favore nella famiglia, tranne, Gamberetto che espresse la sua opinione senza circonlocuzioni. Anche a Susan piaceva. E nei giorni di pioggia, in assenza del suo padrone che era andato a scuola, rimaneva con lei girando per la soffitta a caccia di topi immaginari, in angoli bui, cominciando a guaire per il terrore ogni volta che per l'entusiasmo arrivava troppo vicino al piccolo arcolaio. Non era mai stato utilizzato. I Morgan l'avevano lasciato lì quando traslocarono e stava in quell'angolo buio, simile ad una curva vecchietta. Nessuno riusciva a capire la paura di Jip per quell'arcolaio. Non sempre aveva paura della grande ruota per filare, ma stava seduto lì vicino mentre Susan la faceva girare con la manovella e correndo da un capo all'altro della soffitta accanto a lei che camminava facendo girare tra le dita il lungo filo di lana. Susan ammise che un cane può essere veramente di compagnia e pensando allo stratagemma di sdraiarsi sulla schiena agitando le zampe anteriori in aria quando voleva un osso, diceva che era il più intelligente di tutti. Lei e Jem si arrabbiavano quando Bertie Shakespeare beffardamente osservava «E quello lo considerate un cane?» «Noi lo consideriamo un cane», disse Susan con minacciosa calma. «Forse tu lo consideri un ippopotamo?» E Bertie quel giorno tornò a casa senza avere un pezzo di uno stupendo miscuglio che Susan chiamava torta di mele sgranocchiante, che faceva regolarmente per i due ragazzi e i loro amici. Lei non era nei dintorni quando McRees chiese: Questo l'ha portato la marea? Ma Jem fu in grado di battersi per il proprio cane. E quando Nat Flagg disse che le gambe di Gypsy erano troppo lunghe per la sua dimensione, Jem replicò che le gambe di un cane dovevano essere abbastanza lunghe per raggiungere il suolo. Nettie non era molto sveglio e a quella risposta non replicò. Novembre era stato avaro di sole quell'anno. Umidi e freddi venti soffiavano attraverso gli spogli rami d'argento nel boschetto degli aceri e la conca era quasi sempre avvolta nella foschia. Non era una cosa graziosa e misteriosa simile alla nebbia. Ma era quello che papà chiamava umida, buia, deprimente, fradicia, piovigginosa foschia. I piccoli di Ingleside dovevano trascorrere la maggior parte del loro tempo libero in soffitta. Ma erano diventati buoni amici di due pernici che venivano ogni sera su un enorme, sicuro, vecchio albero di mele e cinque delle loro stupende ghiandaie erano rimaste fedeli, chiocciando dispettosamente mentre mangiavano il cibo messo per loro dai bambini. Solo che erano ingorde ed egoiste e tenevano tutti gli altri uccelli a distanza. L'inverno si stabilì a dicembre con un'incessante nevicata di 3 settimane. I campi erano, al di là di Ingleside, ininterrotti pascoli d'argento. Recinzione e pilastri dei cancelli indossavano alti berretti bianchi, le finestre erano imbiancate con fiabeschi disegni e le luci di Ingleside, che fiorivano attraverso fiochi, nevosi, crepuscoli, davano il benvenuto a tutti i giramondo. A Susan sembrava che non ci fossero mai stati tanti neonati in inverno come quell'anno e quando gli lasciava il boccone del dottore nella dispensa, notte dopo notte, segretamente pensava che sarebbe stato un miracolo se fosse riuscito a resistere fino a primavera. Il nono bambino Drew, come se non ce ne fossero già abbastanza di Drew nel mondo. Beh, suppongo che per Mrs. Drew sarà solo una meraviglia come per noi lo è Rilla, Susan. Oh, lei ha sempre la battuta pronta, signora dottora cara. In biblioteca o nella grande cucina, intanto, i bambini programmavano la loro casetta estiva nella conca, mentre di fuori urlavano le tempeste o soffici nuvoli bianche erano sospinte su gelide stelle. Che soffiasse forte o soffiasse piano, a Ingleside c'era sempre un fuoco acceso, il fuoco del conforto, il riparo dalla tempesta, odore di festa, letti pronti per le piccole creature stanche. Natale arrivò e se ne andò, senza essere oscurato da una qualsiasi ombra della zia Mary. C'erano tracce di coniglio nella neve da seguire e grandi campi crostosi su cui si correva sulle proprie orme e colline che riflettevano scintille di luce da usare come scivoli e sullo stagno i nuovi pattini da provare nel gelido rosato mondo del tramonto invernale. E sempre un cane giallo con nere orecchie che correva con te o incontro a te con gioiosi guaiti di benvenuto quando tornavi a casa. Mentre tu dormivi, lui dormiva ai piedi del tuo letto, era accucciato ai tuoi piedi. Mentre tu stavi studiando la tua lezione di ortografia, sedeva vicino a te durante i pasti e con la piccola zampa occasionalmente ti ricordava che lui era lì. Mamma, non so come potevo vivere prima che arrivasse Jip. Lui può parlare, mamma, può davvero con gli occhi, sai? Poi la tragedia. Un giorno Jip era un po' svogliato, non voleva mangiare, anche se Susan lo tentava con l'osso della costina di maiale che tanto amava. Il giorno dopo il veterinario, fatto venire da Lowbridge, scosse la testa. Era difficile dirlo, il cane poteva avere trovato qualcosa di velenoso nei boschi. Avrebbe anche potuto guarire, ma anche no. Il cagnolino se ne stava tranquillo, senza badare a nessuno tranne a Jem, quasi fino all'ultimo cercò di scodinzolare quando Jem lo accarezzava. Mamma, è sbagliato pregare per Jip? Certo che no, caro. Possiamo pregare sempre per qualcosa che amiamo, ma ho paura. Jip è un cagnolino molto malato. Mamma, non crederai che Jip stia per morire? Jip morì la mattina seguente. Era la prima volta che la morte entrava nel mondo di Jem. Nessuno mai dimentica l'esperienza avuta mentre si guarda morire chi amiamo, anche se è solo un cagnolino. Nessuno in tutta Ingleside piangente usò quell'espressione. Nemmeno Susan, che asciugandosi il naso rosso mormorò: «Non ho mai fatto amicizia con un cane prima e non succederà più, fa troppo male». Susan non era a conoscenza della poesia di Kipling sulla follia di dare il vostro cuore a un cane perché lo laceri, ma se l'avesse conosciuta, nonostante il suo disprezzo per la poesia, avrebbe pensato che per una volta un poeta aveva parlato con saggezza. La notte fu dura per il povero Jem. Mamma e papà erano via, Walter aveva pianto fino ad addormentarsi e lui era solo, con nemmeno un cane con cui parlare. I cari occhi marrone che sempre lo guardavano con tanta fiducia erano stati appannati dalla morte. Caro Dio, pregò Jem, per favore accudisci il mio cagnolino che è morto oggi. Lo riconoscerai dalle due orecchie nere, non lasciare che si senta solo, senza di me. Jem si coprì il volto con la coperta per soffocare un singhiozzo e quando spense la luce, la notte scura lo guardò attraverso la finestra. E Jip non ci sarebbe stato. La mattina fredda d'inverno sarebbe arrivata e Jip non ci sarebbe stato. Il giorno sarebbe stato seguito da un altro giorno per anni e anni e Jip non ci sarebbe stato più. Oh, non poteva proprio sopportarlo. Poi un braccio teneramente scivolò intorno a lui e lui si strinse a quel caldo abbraccio. Oh, c'era stato lasciato ancora dell'amore nel mondo, anche se Gippi non c'era più. Mamma, sarà sempre così? Non sempre, Anna. Non gli disse che presto avrebbe dimenticato, che fra non molto Gippi sarebbe stato solo un caro ricordo. Non sempre, piccolo Jem. Questo guarirà un giorno, come con la mano bruciata. Sei guarito, anche se subito ti ha fatto tanto male. Papà ha detto che mi avrebbe preso un altro cane. Non voglio averlo, no, non voglio un altro cane, mamma, mai più. Lo so, tesoro. La mamma sapeva sempre tutto. Nessuno aveva una mamma come la sua. Voleva fare qualcosa per lei e tutto in una volta gli venne in mente che cosa avrebbe fatto. Avrebbe comprato per lei una di quelle collane di perle che c'erano nel negozio di Mr. Flagg. Una volta l'aveva sentita dire che le sarebbe piaciuta una collana di perle e papà aveva detto: "Quando arriva la nostra nave te ne comprerò una, ragazza mia." Bisognava riflettere su modalità e strumenti. Aveva una paghetta, ma occorreva per tutte le sue normali necessità e le collane di perle non erano tra le voci di bilancio. Inoltre voleva guadagnare dei soldi per se stesso. Sarebbe stato davvero il suo regalo allora. Il compleanno della mamma era in marzo. Mancavano solo 6 settimane e la collana sarebbe costata 50 centesimi. Capitolo 19. Orci saltimbanchi. Non era facile guadagnare dei soldi a Glenn, ma Jem prese la cosa con determinazione. Con delle vecchie bobine fece delle trottole per i ragazzi a scuola e ne ricavò 2 centesimi a testa. Vendette 3 preziosi denti da latte per 3 centesimi. Dava la sua fetta di torta di mele sgranocchianti ogni sabato pomeriggio a Bertie Shakespeare Drew e ogni notte metteva quello che aveva guadagnato nel maialino d'ottone che Nan gli aveva regalato a Natale. Un lucido e carino maiale d'ottone con una fenditura nella schiena in cui far cadere le monete. Quando ci fossero state messe 50 monetine, il maiale avrebbe potuto essere aperto abilmente e spontaneamente facendo girare la coda e il malloppo sarebbe stato restituito. Infine, per recuperare gli ultimi 8 centesimi, vendette la sua serie di uova di volatili a McCreasy. Era la serie più bella che c'era a Glenn e soffrì un po' nel cederla, ma il compleanno si stava avvicinando e il denaro doveva essere trovato. Jem fece cadere gli 8 centesimi nel maiale, appena Mac lo ebbe pagato, e lo contemplò esultante. Fa ruotare la sua coda per vedere se davvero si apre, disse Mac, che non credeva si aprisse. Ma Jem si rifiutò, non aveva intenzione di aprirlo fino a che non era pronto per andare a prendere la collana. Gli ausiliari alle missioni si incontrarono a Ingleside il pomeriggio del giorno dopo, giorno che non fu mai dimenticato. Proprio nel bel mezzo della preghiera di Mrs. Norman Taylor, e Mrs. Norman Taylor aveva fama di essere molto orgogliosa delle sue preghiere, un disperato ragazzino irruppe nel soggiorno. Il mio maiale di ottone è sparito, mamma! Il mio maiale di ottone è sparito! Anna lo spinse fuori, ma Mrs. Norman ritenne per sempre che la sua preghiera fosse stata rovinata, in particolare perché voleva impressionare la moglie di un ministro che era in visita, e così fece passare lunghi anni prima di perdonare Jem e richiedere nuovamente prestazioni mediche a suo padre. Dopo che le signore se ne furono andate, Ingleside fu rovistata da cima a fondo per cercare il maiale, ma inutilmente. Jem, tra il rimprovero per come si era comportato e l'angoscia per la sua perdita, non riusciva a ricordare proprio quando l'aveva visto l'ultima volta e dove. Telefonò a McCreese, che rispose di aver visto il maiale sopra lo scrittoio di Jem. Non credi, Susan, che McCreese... Oh, no, signora dottora cara, sono abbastanza sicura che non l'abbia fatto. I Reese hanno le loro colpe, sono terribilmente, appassionatamente alla ricerca di soldi, ma li prendono di solito onestamente. Dove può essere quel benedetto maiale? Forse l'hanno mangiato i topi? Disse Dee. Jem si schermì all'idea, ma si preoccupò. Naturalmente i topi non potevano mangiare un maiale di ottone con 50 monetine dentro di sua proprietà, ma avrebbero potuto? No, no, caro, il tuo maiale verrà trovato, assicurò la mamma. Non era ancora stato trovato quando Jem andò a scuola il giorno dopo. La notizia della sua scomparsa raggiunse la scuola prima di lui e molte delle cose che gli furono dette non furono esattamente confortanti. Ma durante l'intervallo Sissy Flagg gli si avvicinò furtivamente e in maniera accattivante. A Sissy Flagg piaceva Jem, ma a Jem non piaceva lei, nonostante, o forse proprio per quello, i suoi folti riccioli biondi e i grandi occhi castani. Anche a 8 anni si possono avere dei problemi che riguardano il sesso opposto. Io posso dirti chi ha il tuo maiale. Chi? Tu scegli me al gioco Clap In e Clap Out e io te lo dirò. Era un boccone amaro, ma Jem era disposto a mandarlo giù, avrebbe fatto di tutto per trovare quel maiale. Si mise a sedere, angosciato dalla vergogna, accanto alla trionfante Sissi, mentre gli altri applaudivano, e quando suonò la campanella chiese la sua ricompensa. Alice Palmer dice che Willie Drew le disse che Bob Russell gli disse che Fred Elliott disse che sapeva dov'è il tuo maiale. Vai a chiedere a Fred. Imbrogliona! Gridò Jem fissandola. Imbrogliona! Sissi rise con arroganza. A lei non importava. Jem Blythe si era seduto accanto a lei per una volta, questo le interessava. Jem andò da Fred Elliott, che in un primo momento dichiarò di non sapere nulla del vecchio maiale, neanche lo voleva sapere. Jem era in preda alla disperazione. Fred Elliott era di 3 anni più vecchio di lui e famoso per la sua prepotenza. Improvvisamente ebbe un'ispirazione. Puntò severamente il sudicio dito indice verso la grande rossa faccia di Fred Elliott. Sei un transustanziazionalista, disse chiaramente. Ehi tu, non mi insultare, giovane Blythe. Questo è più che un insulto, disse Jem. Questa è una parola voodoo. E se te la ripeto ancora una volta e punto il dito contro di te, così tu sarai sfortunato per una settimana. Forse ti si staccheranno le dita dei piedi. Conterò fino a 10 e se non parli prima di arrivare a 10, io ti mando il voodoo. Fred non ci credeva. Ma la gara di pattinaggio aveva luogo quella sera e non voleva rischiare. Inoltre, le dita dei piedi erano le dita dei piedi. E al 6 si arrese. Va bene, non sforzare le tue mascelle dicendo quella parola una seconda volta. Mac sa dov'è il tuo maiale, ha detto che è stato lui. Mac non era a scuola, ma quando Anna sentì la storia di Jem, telefonò a sua madre. Mr. Reese venne su poco più tardi, con la faccia rossa e sudata. Mac non ha preso il maiale, signora Blythe. Voleva solo vedere se si apriva e così, quando Jem non era nella stanza, ha girato la coda e il maiale si è diviso in due pezzi e Mac non è più riuscito a rimetterli insieme. Così ha messo le due metà del maiale e il denaro in una delle scarpe della domenica di Jem nell'armadio. Lui non avrebbe dovuto toccare e suo padre gli ha dato la caccia e l'ha scoraggiato a rifarlo, ma non l'ha rubato, signora Blythe. Qual era la parola che hai detto a Fred Elliott, piccolo Jem, caro? Chiese Susan quando il maiale smembrato fu trovato e i soldi contati. Gli ho detto transustanziazionalista, disse con orgoglio Jem. Walter l'ha trovata nel dizionario la settimana scorsa. Sai che gli piacciono le parole lunghe con tante lettere, Susan, e così abbiamo imparato a pronunciarla. L'abbiamo ripetuta l'uno all'altro 21 volte nel letto prima di metterci a dormire in modo da ricordarcela. Ora che la collana era acquistata e riposta nel terzo scomparto dall'alto del cassetto di mezzo, nel comò di Susan, Susan era al corrente del piano sin dall'inizio. Jem pensava che il compleanno non sarebbe mai arrivato e gli gongolava sulla sua inconsapevole mamma. Lei sapeva poco di ciò che era nascosto nel cassetto del comò di Susan. Lei sapeva poco di ciò che il suo compleanno le avrebbe portato e lei sapeva poco quando cantava alle gemelle per farle dormire. Di ho visto un veliero in mezzo al mar. Oh, era tutto pieno di belle cose e per me doveva arrivare ciò che la nave le avrebbe portato. Gilbert aveva avuto un attacco di influenza ai primi di marzo e ci mancò poco che diventasse polmonite. C'erano stati un paio di giorni pieni di ansia. A Ingleside, Anna continuava ugualmente a fare la mamma, a pianare litigi, somministrare consolazione, chinarsi sui letti al chiaro di luna per vedere se cari piccoli corpi erano al caldo, ma i bambini persero la sua risata. Che cosa farà il mondo se papà muore? Sussurrò Walter con labbra esangui. Non sta per morire, tesoro, adesso è fuori pericolo. Anna si chiedeva come sarebbe stato il loro piccolo mondo di Four Winds, di Glen e di Arbor Head se fosse successo qualcosa a Gilbert. Ognuno era diventato così dipendente da lui. Le persone di Upper Glen, in particolare, sembravano davvero credere che poteva resuscitare i morti e non lo faceva solo per non contraddire l'Onnipotente. L'aveva fatto una volta, affermavano. Il vecchio zio Archibald MacGregor aveva solennemente assicurato a Susan che Samuel Hewett era morto senza ombra di dubbio, mentre il dottor Blythe lo aveva fatto rinvenire. In ogni caso, quando le persone dal loro letto vedevano il magro volto bruno e gli amichevoli occhi color nocciola di Gilbert, e ascoltavano il suo allegro «Oh, ma tu non hai proprio niente!» Beh, ci credevano fino a farlo diventare vero. Per quanto riguarda bambini battezzati con il suo nome, beh, l'intero quartiere di Four Winds ne era pieno di piccoli Gilbert e ci fu anche una Gilbertine. Così papà stava di nuovo bene e la mamma aveva ripreso a sorridere e finalmente giunse la notte prima del compleanno. Se si va a letto presto, piccolo Jem, domani arriverà più rapidamente, assicurò Susan. Jem provò, ma non sembrava funzionare. Walter si addormentò immediatamente, ma Jem si contorceva, aveva paura di andare a dormire. Immaginò di non svegliarsi in tempo e che tutti gli altri avessero già dato i loro regali alla mamma. Voleva essere davvero il primo. Perché non aveva chiesto a Susan di non dimenticarsi di svegliarlo? Lei era andata a fare una visita da qualche parte, ma glielo avrebbe chiesto quando fosse rientrata. Doveva essere sicuro di sentirla. Beh, doveva solo scendere e sdraiarsi sul divano del salotto e da lì non poteva non sentirla. Jem strisciò verso il piano di sotto e si arrotolò in un Chesterfield. Riusciva a vedere oltre Glen. La luna con la sua magia riempiva gli avvallamenti tra le bianche dune innevate, i grandi alberi che erano così misteriosi di notte, con quelle braccia tese verso Ingleside. Sentiva tutti i suoni notturni di una casa, uno scricchiolio nel pavimento, qualcuno che si stava girando nel letto, lo sbriciolarsi e la caduta del carbone nel camino, la veloce corsa di un topolino nell'armadio delle porcellane. Cos'era, una valanga? No, solo la neve che si sta sciogliendo sul tetto. Si sentiva un po' solo. Oh, perché Susan non arrivava? Se ora soltanto avessi avuto Jip, caro Jippy. Aveva dimenticato Jip? Oh no, non esattamente dimenticato, ma ora non faceva più così tanto male pensare a lui. Uno per la maggior parte del tempo pensa ad altre cose. Oh, dormi bene, più caro tra i cani. Forse qualche volta avrebbe voluto un altro cane, dopo tutto. Sarebbe stato bello se ne avessi avuto uno adesso. Oh, Gamberetto, ma... Oh, Gamberetto non era in giro, egoista di un vecchio gatto, pensa solo ai propri affari. E ancora nessun segno di Susan, che avanzasse per la lunga strada che serpeggiava all'infinito attraverso quello strano, illuminato, bianco percorso illuminato dalla luna, nel Glen che di giorno gli era così familiare. Beh, avrebbe semplicemente immaginato delle cose per passare il tempo. Un giorno sarebbe andato nella terra di Baffin per vivere con gli eschimesi. Un giorno avrebbe fatto vela per lontani mari e si sarebbe cotto uno squalo per la cena di Natale come il capitano Jim. E sarebbe andato con una spedizione in Congo in cerca di gorilla. E sarebbe stato un subacqueo per vagare in corridoi radianti di cristallo sotto il mare. E avrebbe chiesto allo zio David di insegnargli a mungere dentro la bocca di un gatto la prossima volta che fosse andato ad Avonlea. Lo zio David era di questo proprio un esperto. Forse sarebbe stato un pirata. Sì, Susan voleva che diventasse un ministro della Chiesa. Come ministro poteva fare del bene, ma non sarebbe stato più divertente fare il pirata. E se il soldatino di legno salta dalla mensola del caminetto e spara con la sua pistola? E se le sedie si mettono a camminare per la stanza? E se la tigre del tappeto diventa viva? E se gli orci saltimbanco che lui e Walter avevano finto quando erano molto giovani si trovassero in tutta la casa, ora stavano davvero lì intorno? Jem ebbe improvvisamente paura. Durante il giorno lui poche volte si dimenticava della differenza tra la fantasia e la realtà, ma quella notte senza fine era molto diverso. Tic, tac, faceva l'orologio. E per ogni tic c'era un orso saltimbanco seduto su un gradino delle scale. Le scale erano proprio nere di orsi saltimbanchi. Staranno seduti lì fino all'alba, borbottando. E se Dio si fosse dimenticato di lasciar sorgere il sole? Oh, il pensiero fu così terribile che Jem seppellì il suo volto nel plaid per scacciarlo. E lì Susan lo trovò, profondamente addormentato. Quando tornò a casa in un ardente arancione di alba invernale. Piccolo Jem! Jem si srotolò e si mise a sedere sbadigliando. Era stata una notte impegnativa, ma ora finalmente era il mattino del compleanno della mamma. Ti stavo aspettando, Susan, per dirti di svegliarmi e non arrivavi mai. Oh, sono andata a far visita a John Warren perché la loro zia è morta e mi hanno chiesto di rimanere seduta per vegliare la salma, spiegò Susan allegramente. Non immaginavo che avresti cercato di prendere la polmonite solo per un minuto che giro la schiena. Date la gambe nel tuo letto e io ti chiamo quando sento tua madre che comincia a muoversi. Susan, come si accoltellano gli squali? Vuole sapere Jem prima di andare al piano di sopra. Io non li accoltello di certo, rispose Susan. La mamma era in piedi quando andò nella sua stanza. Si stava spazzolando i suoi lunghi capelli lucenti davanti allo specchio. I suoi occhi quando lei vide la collana. Oh, Jem, caro, per me! Ora non dovrai aspettare fino a che arriva la nave di papà, disse Jem con raffinata disinvoltura. Che cos'era quello scintillio verdolino sulla mano della mamma? Un anello? Il regalo di papà? Oh, bello, ma non abbastanza. Gli anelli sono cose così comuni. Anche Sissy Flag ne aveva uno. Ma una collana di perle? Una collana è qualcosa di tanto carino per un compleanno, disse la mamma.